direi che l'argomento, quello che diceva Anzalone, è sicuramente molto importante. Sarebbe interessante, ad esempio, parlare del rapporto fra mass media e storia, ad esempio, no? Ecco. Non a caso, molto spesso, Anzalone è un giornalista, come Sardi, un giornalista di lusso, cioè di quelli abituati anche a riflettere, cioè non a scrivere in due minuti due righe, no? Abituato a riflettere anche sul loro lavoro, insomma. E sarebbe interessante riflettere appunto sull'uso pubblico della storia, sul rapporto fra storia e mass media, ad esempio, no? L'abbiamo visto anche un mese fa, in occasione del 60° anniversario della firma dell'accordo del gas per il Gruber, abbiamo visto la polemica ricordare, celebrare o festeggiare, va bene? Abbiamo visto cerimonia a Bolzano, cerimonia a Trento, niente di regionale, perché la regione si è di fatto svuotata. Abbiamo visto quasi una crisi fra questi due piccoli stati, fra questi due governatori, no? Che si fronteggiavano, no? Nessuno voleva andare a casa dell'altro. Poi la tensione è venuta meno quando Dell'Ai ha detto, praticamente per ringraziarsi il Landeshaupt, che lui condivideva fino in fondo la proposta di Durwalde di cancellare la toponomastica italiana, no? Che è a dimostrazione del fatto che è facile essere generoso con le cose degli altri, insomma, no? Questa è una cosa molto, molto interessante. In effetti però è vero che c'è sempre questo rapporto continuo, no? Fra storia, uso politico della storia, e i giornalisti molto spesso, anche per questione di tempi, quando fanno allo storico la domanda, gli tirano in 30 secondi di sintetizzare la vita. Quindi, ad esempio, quando i giornalisti chiedono qualcosa a uno storico per quanto riguarda De Gasperi nel momento in cui ha firmato l'accordo del Gasperi Gruber, molto spesso il retropensiero è: ma De Gasperi, quando ha firmato l'accordo con Gruber, era consapevole che poi l'autonomia sarebbe stata data e non solamente la provincia di Bolzano, che quindi sarebbe fallita, che quindi ci sarebbe stato il terrorismo? Ecco, cose di questo tipo. E molto spesso anche su Battisti poi il problema è questo, no? Cioè, oggi sull'Adige di oggi, ad esempio, c'è un brano di questo testo, però le tre righe che accompagnano il testo dicono: Battisti era sicuramente salornista, no? Sull'Adige di oggi. Il titolo del giornale. E vorrei chiudere questa serata ricordando un piccolo aneddoto, un annetto, come direbbero i nostri studenti, un annetto che mi è capitato 20 anni fa, appunto quando ho pubblicato questo libro. E forse perché era estate, forse perché c'era spazio sui mass media, un giornalista della Rai mi ha fatto un'intervista. E era un giornalista che era anche un amico, non di quelli che ti vogliono tirare il trabocchetto, perché ci sono poi anche quelli, no? Ecco, questo era un amico che voleva anche darmi spazio e mi ha fatto una domanda, la classica domanda: ma Battisti voleva il confine di Salorno o voleva il confine del Brennero? E io gli ho dato una risposta un po' articolata, e l'ho spiegato come ho spiegato prima a voi in un quarto d'ora. Gli ho spiegato in 3 minuti che in un primo momento Battisti teorizzava il confine di Salorno, e poi in una seconda parte, in un altro contesto storico, ha teorizzato anche il confine del Brennero. Questo giornalista amico, insisto, a un certo punto si è reso conto che la cosa era interessante, però durava, la mia risposta era di 3 minuti, e cosa ha fatto? Ha tagliato la risposta e ha trasmesso la domanda e la prima parte della mia risposta, cioè il Battisti salornista, alla radio Rai 3, e la domanda e la seconda parte della risposta, cioè il Battisti confine del Brennero, al TG3 video. Quindi, canale ha riportato la seconda parte, ecco, della, quindi video. Nel momento in cui uno sentiva l'intervista alla radio, sentiva sì, Battisti è teorico al confine di Salorno. Chi sentiva l'intervista alla televisione diceva: no, Battisti è teorico al confine del Brennero. Dopo 10 minuti mi hanno telefonato la mima Battisti Bonelli, che aveva visto l'intervista video, e mi ha detto: ma come? Tu ti sei rivendicato questo, per chiudere in bellezza con una battuta, però per dire, perché politicamente, che vedevano nel passato le motivazioni del loro agire politico. Ecco, io rimpiango, dava molta importanza alla coerenza fra agire politico e conoscenza della storia. Grazie.